L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al nostro consueto ripasso dei fatti principali della settimana, cominciata sabato scorso 17 ottobre, che si è conclusa ieri 23 ottobre. Devo subito fare una precisazione, perché nella puntata di oggi la politica entrerà ed uscirà in continuazione e ci sono tantissime cose che probabilmente non riusciremo a sviluppare. Ci sono argomenti in realtà già trattati tante volte e sui quali torneremo nelle prossime settimane, per esempio la giustizia, tutte le ripercussioni sulla vicenda Mesiano, il giudice della sentenza sul lodo Mondadori, nei confronti dei quali forse lo possiamo dire le telecamere di Mediaset sono state piuttosto invasive. Poi c'è il tema eterno della libertà di stampa, con le mozioni del PD e del PDL che sono state bocciate al Parlamento europeo, e per me francamente si poteva evitare questa figuraccia, comprese poi le reazioni davvero scomposte di alcuni eurodeputati della Lega che si sono così abbandonati a dei gestacci davvero poco raccomandabili. Poi ci sono le primarie del PD domani, quindi siamo alla fine di questa corsa a tre tra Franceschini, Bersani e Marino. Forse parleremo anche un po' meno di Berlusconi in senso stretto, che rimane comunque il grande protagonista nel bene e nel male della politica italiana. In settimana Berlusconi è stato in Russia, ci sono state anche molte ironie sulla Dacia di Putin, ma in realtà si è parlato anche di cose importanti, di temi grossi come le forniture di gas. Tra l'altro Berlusconi è stato protagonista suo malgrado di Facebook e di un gruppo che tifa addirittura per la sua uccisione, con tantissimi, troppi fan, 12.000 iscritti. Insomma, l'elenco è lungo in questa settimana politica, però dobbiamo dare la precedenza ad altro. E infatti dobbiamo aprire questa puntata dell'ottavo giorno, almeno questa è la mia scelta, con quella che è la notizia bomba, secondo me, della settimana, che arriva mercoledì dalla Campania e coinvolge, anzi sconvolge, una delle famiglie, o forse a questo punto anche uno dei sistemi di riferimento della regione. Sentiamo Enzo Danna e poi Laura Viggiano. Una nuova bufera politico-giudiziaria che investe il Consiglio regionale della Campania e l'ARPAC, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. 63 gli indagati, tra politici, dirigenti pubblici, imprenditori e professionisti, nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati e assunzioni pilotate. Coinvolti tra gli altri l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella, il figlio Pellegrino e la moglie Sandra Lonardo, attuale presidente del Consiglio regionale, per la quale è stato disposto il divieto di dimora in Campania e nelle province limitrofe. Agli arresti domiciliari l'ex direttore generale dell'ARPAC, Luciano Capobianco. L'inchiesta della Procura di Napoli ha accertato l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe, abusi d'ufficio, turbative d'asta e concussioni nella gestione di appalti pubblici e concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione. Un sistema clientelare basato su raccomandazioni di esponenti politici dell'Udeur e di altri partiti che avevano di fatto lottizzato l'Agenzia regionale per l'ambiente. 655 raccomandati, il 90% dei quali ha visto soddisfatte le proprie richieste. Al fianco di gran parte dei nomi, l'indicazione del politico che ha avanzato la segnalazione per un'assunzione o la nomina per qualche incarico affidato dall'ARPAC è in un libro masso informatizzato, custodito nel computer dell'ex direttore generale dell'Agenzia regionale per l'ambiente, Luciano Capobianco, un elemento fondamentale dell'inchiesta napoletana che ha sviluppato le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere, cioè quelle che avevano portato nel 2008 agli arresti domiciliari Lady Mastella e aperto la strada alla caduta del governo Prodi per il coinvolgimento del marito all'epoca ministro della giustizia. In tutto sono 152 gli esponenti di centrosinistra e centrodestra che hanno assunto il ruolo di sponsor. Tra questi parlamentari, l'ex ministro all'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e il governatore della Campania Antonio Bassolino, un'agenzia lottizzata con un organo decisionale che, secondo gli inquirenti, era rappresentato dai vertici dell'Udeur più che da Capobianco, che di fatto era un terminale dei promotori di una presunta associazione a delinquere, una sorta di cupola che vede insieme i coniugi Mastella, il consuocero Carlo Camilleri e l'ex segretario regionale dell'Udeur Antonio Fantini. L'intreccio vischioso che purtroppo spesso dobbiamo definire corrotto tra politica, mondo imprenditoriale e pubblica amministrazione non è naturalmente una prerogativa della sola Campania. Martedì a Milano infatti arrivano degli arresti eccellenti, finisce in manette Giuseppe Grossi, che è a capo, lo ricordo, di uno dei più importanti gruppi italiani nel campo dell'ecologia. Nell'inchiesta poi sono coinvolti altri manager e anche Rosanna Gariboldi, che è assessore a Pavia e moglie del vice coordinatore nazionale del Popolo delle Libertà, Giancarlo Abelli. Sui giornali qualcuno addirittura ha preso spunto dalla vicenda per mettere in discussione la candidatura più che probabile di Formigoni alle prossime regionali, ma qui si entra in un altro discorso altrettanto complicato e per certi versi anche affascinante sul piano giornalistico, che riguarda appunto le grandi manovre soprattutto all'interno del centrodestra per il voto delle regionali dell'anno prossimo. Situazioni di stallo ci sono un po' ovunque, per esempio in Veneto, pensiamo alla situazione di Galan, e in Campania. Ma torniamo più precisamente alla cronaca giudiziaria da Milano con Federico Maselli. Gonfiavano le fatture dei costi di bonifica delle aree di Montesiti e Santa Giulia, interessate a importanti operazioni immobiliari, e poi trasferivano il denaro su conti esteri dietro lo schermo di consulenze e prestazioni mai avvenute. Così l'imprenditore Giuseppe Grossi, a capo della SADI, una delle più importanti aziende per le bonifiche ambientali, secondo l'accusa avrebbe creato fondi neri per circa 22 milioni. Soldi che in parte avrebbe utilizzato anche per la corruzione, accusa che gli viene mossa. Di chi non è ancora dato saperlo, anche se una risposta potrebbe venire dalla pen drive ritrovata negli uffici dell'imprenditore. I ricavi illeciti confluivano a Monte Carlo sul conto associati, intestato a Rossana Gariboldi, assessore a Pavia e moglie del parlamentare del PDL Giancarlo Abelli. Tra il 2001 e il 2008 sarebbero transitati di lì 3 milioni e mezzo di euro. A questo punto le società estere emettevano fatture in favore delle società italiane per far ritornare legalmente i capitali. Le indagini della Guardia di Finanza erano partite a seguito dell'arresto dell'avvocato svizzero Fabrizio Pessina e di due ex finanzieri, accusati di aver creato fondi neri gonfiando i costi di bonifica dell'area. L'inchiesta di Milano è andata avanti in questi giorni, ha sprombattuto. Giuseppe Grossi e Rosanna Gariboldi sono stati interrogati giovedì. Procede anche l'inchiesta campana che coinvolge la famiglia Mastella. Abbiamo visto l'ex ministro difendersi tenacemente, duramente in televisione in questi giorni. Dimenticavo però una cosa, perché prima ho sfiorato il discorso delle regionali con Veneto, Campania, un po' in bilico, in stallo nel centrodestra. Però ricordo almeno la storiaccia nella quale è precipitato Piero Marrazzo, che è governatore in carica del Lazio e candidato probabile, possibile, l'anno prossimo per un secondo mandato. Giovedì quattro carabinieri sono stati arrestati all'interno di un'altra storia torbida, perché sono accusati di ricatto nei confronti di Marrazzo, avrebbero avuto in mano un video compromettente, roba di sesso per capirci, con il quale appunto chiedevano soldi a Marrazzo. L'ho già detto, si vota in primavera di nuovo nel Lazio e forse la storia del video, del ricatto, degli arresti e il voto non sono poi del tutto scollegate tra di loro. L'ottavo giorno. Nella prima parte abbiamo affondato le mani in quella che è la corruzione purtroppo ancora dilagante nella politica di oggi, e qualcuno, lo ha scritto sui giornali per esempio, ha già fatto paragoni con il 92, con il clima prima e soprattutto durante Tangentopoli. Ebbene, anche in questa seconda parte dell'ottavo giorno ci ancoriamo a quelle vicende del 92, perché si sta parlando molto del papello, del famoso documento, vero, presunto, fantomatico, adesso con un ospite cercheremo anche di capire come stanno veramente le cose, su cui si sarebbe fondata la trattativa, o meglio un principio, un'intenzione di trattativa tra pezzi dello Stato, per esempio qualche politico e qualche carabiniere, e la mafia, in particolare la frangia guidata da Provenzano. Siamo tra la primavera e l'estate del 92, quindi siamo nel pieno degli attentati che sconvolsero l'Italia, prima Falcone a maggio e poi Borsellino a luglio. Il tramite della trattativa tra Stato e mafia sarebbe Vito Ciancimino, per tanti anni uomo di spicco, sindaco di Palermo e protagonista del sacco della città. Oggi naturalmente Vito Ciancimino non c'è più, è morto, ma rivive grazie alle rivelazioni e appunto ai papelli esibiti dal figlio Massimo. Domenica Piero Grasso, procuratore antimafia, ha detto di non avere dubbi, cioè la trattativa è partita tra Stato e mafia nel 92. La pensa invece in modo diverso l'ex comandante del ROS, Mario Mori, che secondo le accuse sarebbe invece proprio l'emissario di quella parte dello Stato che voleva andare a sentire le ragioni e le trattative, i punti di trattativa della mafia. Sentiamo proprio su questo Raffaella Calandra nei GR di martedì. Conferma gli incontri con Don Vito ma nega ogni mediazione sotto banco. Non ci fu alcuna trattativa tra Stato e mafia, scandisce Mario Mori, già comandante del ROS. Parla in aula dopo aver ascoltato Violante e il figlio maggiore di Ciancimino e si difende dall'accusa di aver barattato la fine della stagione delle stragi con un aiuto alla latitanza di boss come Bernardo Provenzano. Quattro volte tra agosto e ottobre 92 il generale racconta di aver visto l'ex sindaco di Palermo, ma ne parlò per la prima volta a Violante quattro mesi dopo il primo incontro, mentre nulla riferì ai magistrati, anche perché, spiega, archiviarono l'inchiesta mafia appalti che Borsellino considerava la causa della strage di Capaci. Mi portavano a ritenere che anche una parte di quella magistratura, oltre ad ambienti politici ed imprenditoriali, temesse la prosecuzione dell'indagine Anche per questo Ciancimino cercava in Violante un garante presso le toghe. L'interpretazione che io detti era o la questione dei suoi beni o della questione dei rapporti tra Andreottiani e la mafia. Al figlio maggiore Giovanni, l'ex sindaco di Palermo aveva chiesto spiegazioni tecniche sulla revisione dei processi. Dopo la strage di Capaci gli disse: questa mattanza deve finire. L'ho annunciato prima di riascoltare il servizio di Raffaella Calandra, abbiamo in studio e mi fa molto piacere presentarlo Nino Amadore, collega della redazione siciliana del Sole 24 Ore. Buongiorno Nino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi siciliano palermitano per la precisione, credo, no? Se non sbaglio. No, sono messinese, ma sono ormai palermitano. Di adozione. Sì, insomma, mi sento tale almeno. Segui da tantissimo tempo le vicende della Sicilia, quindi anche della mafia e forse anche questa storia del papello. Al di là di quello che ho già detto prima io e di quello che abbiamo riascoltato nel servizio della collega Calandra, che cosa ti senti di dire per inquadrare ancora meglio la questione che sta tenendo banco da diverse settimane su giornali e televisioni? Beh, no, la connessione che hai fatto tu mi sembra molto appropriata, quella tra Tangentopoli e la stagione delle stragi che si apre tristemente con la strage di Capaci. Il momento è un momento molto triste, molto duro, molto aspro per il nostro paese. Vorrei ricordare che si temeva il peggio da un momento all'altro, tutti temevano di poter finire in galera da un momento all'altro. C'era ormai un sistema consolidato di corruzione per cui il paese aveva paura, e questo c'era anche un blocco istituzionale. Mi ricordo dell'elezione del Presidente della Repubblica che non riusciva a sbloccarsi e che si sbloccò grazie al botto, all'attentatuni, no? Questa era la Scalfaro, ecco, che venne presente un po' a sorpresa. Esattamente. Quindi questo era il contesto di quel momento, e in questo contesto dobbiamo inserire l'informativa dei Ross, la cosiddetta informativa mafia appalti, che venne fatta su indicazione di Giovanni Falcone e che in qualche modo è la pietra miliare di tutta questa vicenda, perché nell'informativa c'erano i nomi di politici, c'erano i nomi di grandi imprenditori nazionali, c'erano i nomi di mafiosi, c'era il sistema degli appalti siciliano in quel momento. Nino Amadore, domanda secca, a questo papello che poi sarebbe l'architrave su cui si poggia tutta l'inchiesta, perché sarebbero 12 punti di richieste della mafia allo Stato per intavolare una trattativa, quindi alleggerimento del 41 bis, addirittura lo sgravio sulla benzina in Sicilia, per poi allentare, diciamo, la morsa nei confronti dei pezzi dello Stato che stavano indagando sulla mafia. Tu a questo papello ci credi del tutto, in parte, c'è qualcosa che non ti torna? Per esempio, a me fa molta specie il fatto che a distanza di oltre 15 anni improvvisamente molti abbiano recuperato la memoria. Ha parlato Violante, sta parlando Mori, ha parlato l'ex ministro della giustizia di allora, Martelli, insomma non potevano parlare prima. Che cosa sta succedendo in questo momento? Sì, anche perché molti di loro sono stati ascoltati in vari tronconi dei processi che si sono tenuti a Caltanissetta sulla strage di Via D'Amelio. No, il papello è un fatto molto interessante. Da un punto di vista giornalistico è una delle storie più interessanti degli ultimi anni. Esiste, non esiste? Sicuramente quello che io ho visto pubblicato sui giornali, la fotocopia del papello, quello che l'avvocato di Massimo Ciancimino ha consegnato ai magistrati, secondo me è un bluff, è una boiata terribile. Ciancimino, tra l'altro, che sta centellinando queste informazioni. Sì, perché Ciancimino è stato anche condannato per aver riciclato il patrimonio, i soldi di suo padre, insomma ha una sua vicenda processuale che è in appello, insomma che segue un suo corso. In ogni caso quel papello, quelle richieste a me sembrano, non mi sembrano verosimili. Qualcuno l'ho anche scritto sul giornale, azzarda addirittura si possa trattare di un depistaggio. Io non mi spingo fino a questo punto perché non sono un magistrato, però voglio dire, ho molte perplessità. Ma invece, al di là del papello, la trattativa è una questione diversa. Allora, Grasso dice che la trattativa ci fu, probabilmente trattativa è un termine per sintetizzare qualcosa di più. Dopo la strage di di Capaci, lo Stato si trova disarmato, capisce di essere debole, di avere dei problemi. Allora gli uomini dello Stato, tutto lo Stato, gli uomini dello Stato si muovono, cercano contatti. Che siano stati i carabinieri dei ROS in quel momento o che siano stati altri a cercare contatti con la mafia è tutto da capire. Sicuramente ci sono i dati certi che abbiamo, è che i contatti tra Mario Mori e Don Vito Ciancimino, quindi tramite Don Vito, probabilmente con Cosa Nostra, probabilmente con Totorrina, cominciano il 5 agosto, cioè i primi di agosto Mori incontra Don Vito, è in tavola con Don Vito, quindi dopo l'assassinio di Borsellino, dopo. È importante anche questo, capire se prima o dopo, e questo è il punto su cui insisto parecchio io. Prima di Borsellino sicuramente i contatti con Cosa Nostra ci sono stati, perché c'è invece chi sostiene che l'avvio della trattativa, chiamiamola così, quindi forse anche l'esibizione del papello a fine giugno, avrebbe in qualche modo anche accelerato poi la sorte tragica dello stesso Borsellino. No, perché non ci sono prove, non ci sono elementi che ci siano stati dei contatti, quantomeno dei carabinieri, prima del 19 luglio. Ci sono elementi su cui sappiamo, perché in questo momento l'abbiamo un po' messo da parte, però a luglio di quest'anno è stato raccontato sui giornali, anche noi del Sole abbiamo scritto, che ci furono movimenti strani a Palermo nel periodo tra la strage di Via D'Amelio e la strage di Capaci e strage di Via D'Amelio. C'è questo Franco che si muove a Palermo, che potrebbe essere un uomo dei servizi. Ci sono uomini dei servizi su cui la procura di Caltanissetta ha chiesto lumi. Io continuo a porre qui, lo dico e l'ho anche detto anche ad altri, e ieri per esempio Giuseppe Lumia, che è stato presidente della commissione antimafia, lo ha ribadito in un'intervista: perché non andare a vedere negli archivi dei servizi che cosa risulta fra le note di servizio, semmai per quegli anni? Perché i magistrati, come hanno fatto i magistrati di Milano per il caso Abuomar, non chiedono ai servizi le carte su quel periodo? Perché potrebbe essere interessante. Chissà poi se più a questa domanda qualcuno risponderà con i fatti. Bisogna comunque ricordare che poi la vicenda intricata, complicatissima e tragica tra Stato e mafia prosegue a lungo, perché poi il 93 è purtroppo puntellato dalle stragi, dalle bombe che tutti noi ricordiamo di Milano, di Roma, di Firenze. Poi a fine 93 d'incanto le cose si fermano, e anche lì forse bisognerà capire che cosa è realmente successo. Ti chiedo però in 30 secondi se, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio di giornalista, ti aspetti di qui in avanti nuovi colpi di scena rivelatori, oppure se poi la situazione si complicherà e diventerà ulteriormente più torbida. No, io mi aspetto mi aspetto un'evoluzione, chiedo che ci sia un'evoluzione, perché io la domanda che continuo a fare è: perché è stato ucciso Paolo Borsellino? Non mi interessano i ricordi tardivi di tante persone, mi interessano le prove per capire chi, come e perché ha ammazzato Paolo Borsellino. Grazie a Nino Amadore, collega siciliano del Sole 24 Ore. Visto che abbiamo parlato di intrighi, di cose più o meno chiare, allora ci lasciamo in questa parte dell'ottavo giorno con un altro servizio che ripropone altri intrighi. Siamo negli anni 70, ci sono di mezzo la CIA, Moro. Ascoltiamo Paolo Pancieri. L'amministrazione americana, guidata da Jimmy Carter, voleva evitare l'imminente sostegno del più importante partito comunista dell'Occidente al governo che Giulio Andreotti stava per formare nei primi mesi del 1978. I servizi segreti americani ipotizzano quindi un'operazione segreta, una cover action per frantumare il PC sul piano organizzativo, soluzione poi scartata, sembra, dallo stesso Carter. Le novità arrivano da alcuni documenti inglesi del Foreign Office, desegretati e ritrovati dagli storici Mario Cereghino e Giuseppe Casarrubea. I fatti poi precipitano, si arriva al 16 marzo 78, al sequestro e all'uccisione di Moro, il maggior sostenitore del coinvolgimento del PC nell'area di governo. E qui si rafforzano le ipotesi di rapporti diretti fra brigatisti impegnati nel sequestro e intelligence americana, come spiega Giuseppe Casarrubea. Siccome la cosa accade qualche mese prima del sequestro Moro, il sospetto che ci fosse una mano straniera pesante intenzionata a rompere l'unità nazionale, indotto dagli interessi strategici di contenimento del PC attraverso anche interessi politici nazionali che andavano al di là delle linee tracciate da Moro nel corso della sua esperienza politica. Attenzione, perché le vicende che abbiamo riascoltato, che ci riportano alla CIA, Moro, agli anni 70, non sono poi del tutto dislocate, distaccate, distinte dalle vicende di mafia e del papello di cui abbiamo parlato con Nido Amadore pochi minuti fa. L'ottavo giorno. La terza parte di oggi oscillerà tra economia e politica, anche perché quasi sempre, per non dire sempre, economia e politica camminano intrecciate in Italia come nel resto del mondo. Parleremo soprattutto del dibattito più vivace, più interessante della settimana, che ha avuto persino delle sfumature filosofiche, quello dell'elogio del posto fisso, fatto non da un vetero o da un neocomunista, ma addirittura dal ministro dell'economia Tremonti. Però prima vorrei aprire una breve riflessione su due invece iniziative cruciali in campo economico di questi giorni. La prima viene annunciata mercoledì dalle banche che nell'ultimo anno sono state molto impegnate, direi, a riscattare la fama di orchi cattivi in questa crisi finanziaria mondiale. La proposta giunge dall'ABI, è significativa perché punta a congelare per un anno, per 12 mesi, le rate del mutuo della casa per chi è in difficoltà. Naturalmente poi ci sono solo determinate categorie di persone che potranno accedere da gennaio a questo provvedimento. La seconda proposta, che invece per ora è soprattutto ferma ad un annuncio, vedremo come evolverà, riguarda invece il rilancio fatto da Berlusconi di una proposta a cui lui in realtà tiene molto e da tanto tempo, cioè il taglio dell'IRAP. Sentiamo allora nell'ordine prima Valeria De Rosa e poi Vincenzo Miglietta. Sarebbero circa 110.000 le famiglie interessate alla moratoria sui mutui per un valore complessivo di 8 miliardi di prestiti erogati. Per i dettagli ci vorrà ancora qualche settimana, ma si sa che l'opzione vale per chi ha perso il posto di lavoro e anche per tutti quelli il cui lavoro autonomo sfuma, in caso di cassa integrazione e anche nella malaugurata ipotesi in cui venga meno il capo famiglia. Incerta la situazione dei nuclei in cui lavorano entrambi i coniugi e dove solo uno dei due abbia problemi sul lavoro. L'adesione degli istituti è volontaria, come spiega Alessandro Messina, responsabile settore crediti retail dell'ABI. L'adesione da parte di ogni singola banca è sempre volontaria. Questo significa anche che ogni singola banca può scegliere il modo più favorevole al cliente. E nel caso in cui il mutuo sia diviso tra due banche e solo una aderisca all'iniziativa, è assicurata la portabilità? Parecchi nodi da sciogliere, insomma, e soluzioni alternative da trovare, come il costo dell'operazione. Il costo degli interessi ci sarà, perché sarebbe troppo costoso per l'industria bancaria nel complesso rinunciare, ma verrà conteggiato in modo tale che il cliente avrà una rata poco aumentata. Abolire l'IRAP è uno dei punti del programma del governo Berlusconi, ma è un'imposta che vale da sola circa 40 miliardi di euro l'anno e che finanzia un settore vitale del paese come la sanità. Da qui l'annuncio del Presidente del Consiglio: partiremo da una riduzione graduale fino alla sua soppressione. È soprattutto alle piccole imprese e ai professionisti che si rivolge Berlusconi, che precisa la riduzione fiscale potrà avvenire anche mediante l'elevazione della franchigia in favore delle aziende più piccole, mentre per aumentare i consumi e agevolare gli investimenti si prevede l'estensione della Tremonti Ter e un sostegno stabile alle piccole imprese che investono nell'innovazione e nella ricerca. I commenti: soddisfatta Confindustria, che dice: bene il governo, l'IRAP va eliminata, si passi però rapidamente dalle parole ai fatti. Perplessa la CGIL, per Epifani si deve alleggerire prima la pressione fiscale su salari e pensioni. Meno tasse ma per tutti, commenta Bonanni CISL. Dal mondo politico si ad un intervento sull'IRAP dalla maggioranza, disponibile al dialogo l'Italia dei Valori, critico invece il Partito Democratico, per il quale si tratta dell'ennesima promessa che non si concretizzerà. Dunque, sull'IRAP potremmo stare qui a parlare per una buona mezz'ora, però dico solo questo: al di là del fatto che si può essere naturalmente favorevoli o contrari all'idea, al provvedimento di abolirla, rimane il problema, grande come una casa, della copertura finanziaria, perché l'IRAP può piacere o meno, può essere considerata sgradita o iniqua, però garantisce un gettito di 40 miliardi di euro, quindi cifre davvero imponenti. Quindi se si toglie l'IRAP o si dovranno andare a pescare soldi da altre parti e in altre forme, oppure non resta che tagliare le spese e tutto questo mentre il debito pubblico continua a crescere. Lasciamo però l'IRAP per ora al suo destino e veniamo a quello che prima ho già definito come il dibattito più interessante, più vivace della settimana, quello che si è innescato attorno al posto fisso rilanciato da Tremonti lunedì. Sentiamo Stefano Totoro. Meglio il posto fisso della mobilità. Per qualcuno le parole del ministro dell'economia sono una svolta. Lui dice che lo ha sempre detto e scritto. Fatto sta che Giulio Tremonti, parlando davanti ai tre leader di CGIL, CISL e UIL, abbandona l'idea della flessibilità, spesso generatrice di lavoratori precari, e si affida a quella del tanto ambito posto fisso. Non credo che la mobilità sia di per sé un valore. il posto fisso è la base su cui organizzi il tuo progetto di vita e su cui fai la famiglia. La variabilità del posto di lavoro, la incertezza, la mutabilità, la precarietà, per alcuni sono un valore in sé, per me onestamente no. Con queste parole Tremonti guadagna la tessera virtuale della UIL quando il segretario Luigi Angeletti dice sembra un nostro iscritto e consolida il rapporto con la CISL di Raffaele Bonanni. È la stessa nostra opinione. E questo naturalmente non ci fa altro che piacere. Se si chiede però a Guglielmo Epifani della CGIL un commento sulla cosiddetta svolta di Tremonti sul posto fisso, la risposta è secca. Lo so, farei commentare a Confindustria. Ci ha raggiunto in collegamento telefonico Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Alberto Orioli, intanto ti chiedo subito di rispondere a Epifani che sul lunedì sollecitava il parere di Confindustria che in realtà è arrivato, non si è fatto attendere. E poi aggiungo nella mischia due considerazioni così che possono servire al dibattito. Il primo punto, se vuoi, lo possiamo considerare in parte coreografico, ovvero questa ennesima uscita di Tremonti sembra confermare l'idea che da quando è tornato ministro dell'economia un anno fa, come dire, un uomo nuovo, quasi con un volto più umano, più vicino a distanze persino sociali che una volta si potevano definire di sinistra. Il secondo punto, invece, direi più sostanziale, più importante, e questa è naturalmente una mia opinione, è che il dibattito di questi giorni viene fatto sul posto fisso, ma in realtà dovrebbe essere fatto sul reddito fisso, che è tutt'altra cosa naturalmente, cioè in un contesto di lavoro che ormai nel 2009, nel XXI secolo, deve essere più o meno flessibile, bisogna comunque assicurare una continuità di stipendio a chi lavora. A te la parola, Alberto. Sì, io partirei dall'idea che è sbagliato il dibattito sul posto fisso. Io tutelerei come valore il lavoro e il lavoratore, non tanto l'idea del posto, dell'impiego, che sono una tecnicalità, per così dire. Quindi se uno tutela il lavoratore, lo può tutelare al meglio e garantirgli una continuità anche nella frammentazione di più posti di lavoro flessibili. Quindi reimpostare un discorso sulla base del posto fisso, che era una vecchia suggestione anni 70, diciamo così, molto legata poi soprattutto all'idea del posto di lavoro pubblico, eccetera, è probabilmente sbagliato oggi. Si fa una confusione tra l'elemento valoriale, secondo me, e quello dell'organizzazione del lavoro e dei lavori, che sono due cose completamente diverse. Non mi sembra di avere notato eccessi, o qualcuno li avrà anche fatti, cioè sull'idea di considerare l'incertezza, la mobilità un valore in sé, che è sbagliato obiettivamente, anche perché ancora una volta c'è un errore, perché non stiamo discutendo di valori, ma di modalità operative di gestione del lavoro. Quindi se assumiamo che il valore è quello da tutelare è quello del lavoro, che ti consente di avere cittadinanza sociale, quindi tutela anche la persona, bisogna lavorare affinché, scusate il bisticcio, affinché si possano creare non delle discontinuità tra più lavori, quando anche fossero precari. Quindi il tema su cui ragionare, ed è il tema retrostante al dibattito di questa settimana, è quello degli ammortizzatori sociali, che rendono più efficiente un mercato del lavoro perché assicurano i periodi di non lavoro con una forma di assistenza più che dignitosa, che consenta quindi di poter pianificare quelle cose a cui faceva cenno lo stesso ministro Tremonti, per una famiglia di giovani, per una famiglia di immigrati, insomma per chi eventualmente sia particolarmente colpito dal cosiddetto lavoro precario, consente di pianificare anche investimenti di lungo periodo e di consentire poi di avere una vita degna, diciamo così, di un paese occidentale. Ma quindi Alberto, dal tuo parere, mi sembra la tua posizione sia piuttosto chiara, insomma anche un po' scettica sulle parole di Tremonti, perché questa uscita di Tremonti? Cioè, ha un fondamento economico, sociale nel mondo del lavoro, oppure è soltanto, tra virgolette, una sparata con fini, se vuoi, elettorali, politici, di conquistare una certa fetta di elettorato e crearsi una nicchia all'interno del suo schieramento, della sua maggioranza? Ah, indubbiamente il ministro Tremonti ci ha stupito più volte con alcuni slogan o con alcune parole chiave, come dire, che sarebbero teoricamente proprie di un certo riformismo anche del centrosinistra, per così dire. Ci ha stupito la prima volta quando ha inneggiato all'opportunità dei lavoratori che sono stati sul tetto per salvare la INSE, cioè lo aveva fatto con una certa con un certo vigore dialettico, come dire, che ha un po' stupito anche all'interno alcuni esponenti del suo stesso elettorato, del suo stesso schieramento. Quindi c'è una nuova linea, chiamiamola così, pro labor, se posso esprimermi in questo modo, del ministro, che però non è nuova, perché in effetti è vero che lui nei suoi libri ha più volte scritto questi concetti, che sono obiettivamente più che sottoscrivibili, perché nessuno pensa che sia brutto il posto fisso in sé, voglio dire, è chiaro che sarebbe, è l'obiettivo di tutti, ma poi se per raggiungerlo bisogna passare da una serie di gradi e di esperienze lavorative anche più frammentate, pazienza, voglio dire, questo è l'oggi, è la modernità, non ci si può fare nulla, secondo me. Un'ultima cosa, al di là del dibattito che, l'ho anche ricordato prima, ha assunto delle pieghe, se vogliamo, filosofiche, ideologiche sul posto fisso, poi in concreto, secondo te, il governo e la maggioranza più in generale su che cosa si muoverà e soprattutto su che cosa poi potrebbe accendersi anche il dibattito politico nel campo minato, complicatissimo, del lavoro e le sue regole? Posso essere tranchant, credo che non faccia assolutamente niente. Aveva un'opportunità per dimostrare che c'era un cambio di passo lo stesso giorno in cui Tremonti ha fatto le dichiarazioni sul posto fisso, perché in Parlamento si discuteva il decreto sui cosiddetti precari della scuola. Più precari e posto un poco più instabile di così, non ce n'è altri esempi, ma il governo non ha fatto nulla per stabilizzare quel tipo di occupazione e secondo me, a dire il vero, ha fatto anche bene, perché non ha senso creare posti di lavoro dietro i quali poi non vi sia l'occupazione effettiva da svolgere. Quindi c'è stata una giornata in cui palesemente sono uscite due stili di pensiero su questo tema in modo molto eclatante. Detto questo, appunto, io penso che nulla farà il governo per stabilizzare i posti di lavoro. C'è in animo dell'esecutivo di fare la riforma allo statuto dei lavori, laddove si parlerà anche di una revisione complessiva degli ammortizzatori sociali, e questo sarà bene, va nella direzione che dicevo prima di non creare periodi di discontinuità lavorative per chi perde il posto di lavoro in modo traumatico, ecco, ma di creare dei sussidi, dei sussidi di disoccupazione che possano essere all'altezza dei tempi. E l'ultima cosa, bisogna dire che il più inadempiente è sempre l'esecutivo, perché il più grande produttore di posti di lavoro precari è la pubblica amministrazione. Beh, mi sembra una postilla finale molto interessante quella che ci hai detto, quindi ringrazio Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, per il suo contributo. Adesso facciamo una virata secca, netta di panorama e di questioni, perché dobbiamo aprire una breve finestra sugli esteri, parlare quantomeno dell'Afghanistan, perché dopo un lungo tira e molla anche pericoloso si è deciso in questi giorni di andare al ballottaggio delle elezioni che si erano tenute tra mille controversie ad agosto. Sentiamo Cristina Balotelli. Hamid Karzai incassa elogi da tutti i capi di governo le cui truppe sono dispiegate in Afghanistan, a cominciare da Obama. Karzai il pragmatico, Karzai lo statista, accetta il secondo turno che avrà luogo il 7 novembre. Ma il presidente afghano uscente, il cui traballante esecutivo fino a poco tempo fa accusato di corruzione e sostenuto principalmente dagli alleati internazionali, non aveva scelta se non quella di accettare il verdetto della commissione guidata dall'ONU. Il presidente della commissione esteri del Senato americano, John Kerry, ruba la scena all'inviato speciale Holbrooke. Per lui un gran bel colpo mediatico. Soddisfatto anche il rivale di Karzai, Abdullah Abdullah, che aveva denunciato i brogli e chiesto un secondo turno, che si svolgerà però in un clima estremamente teso, con un'elevata minaccia a livello di sicurezza. Gli insorti, una nebulosa che comprende i miliziani talebani ma anche elementi di Al-Qaeda, trafficanti e signori della guerra, faranno tutto il possibile per sabotare il voto. Per il resto ci penserà l'inverno a rendere difficoltoso recarsi alle urne. Avrei voluto parlare almeno anche di Iran e dell'attentato di una settimana fa nella lontana, semi sconosciuta provincia del Baluchistan, che è costata la vita a decine di persone, ma non c'è davvero più tempo. L'ottavo giorno. Come promesso, un po' di leggerezza per chiudere questa puntata che si è districata tra papelli, inchieste a Napoli e Milano, questioni legate al posto fisso, eccetera, eccetera. Io cerco sempre di metterci dentro lo sport e quindi apro con i motori. Domani forse Valentino Rossi diventerà per l'ennesima volta, ormai ho perso il conto, campione del mondo nelle moto. Invece un campione del mondo per la stagione 2009 nella Formula 1 c'è già, si chiama Jenson Button, inglese al primo titolo davvero inaspettato almeno all'inizio del campionato. Con lui festeggia anche la sua scuderia, la Ross Brawn, che ha vinto tra i costruttori. Sentiamo ora una riflessione lunedì mattina di Simone Spezia, più che sulla vittoria di Button, sulla Formula 1 in generale. Mettiamo in fila un po' di fatti. Un allucinante Bernie Eccleston, patron della Formula 1, dichiara che la morte di Ayrton Senna fu sì un dramma, ma anche una fortuna per questo sport, visto che gli diede una fiammata di notorietà. Di Flavio Briatore si sa, espulso dal Circus per aver costretto Piquet a schiantarsi su un muretto per far vincere una gara ad Alonso, ieri ha annunciato ricorso. Per non dire di un campionato che si è chiuso ieri, con Jenson Button sul tetto del mondo, ma con le questioni dei regolamenti e dell'assetto delle macchine ad aver starato tutto fin dall'inizio. In un miscuglio di giochi di potere, spallate, violazioni delle regole, la massima serie delle quattro ruote ha perso quest'anno un bel po' di facce e di ascolti. Molta politica, poco sport. Manca qualcosa, forse un grande campione, uno come Michael Schumacher, tanto per dire, o uno come Senna. Ma se a guidare i giochi resta un tale che considera la morte in pista una questione commerciale, beh, allora forse non basterebbe nemmeno quello. Allora, chiusa la stagione 2009, anche se mancano ancora delle gare all'appello, prepariamoci a quello che succederà l'anno prossimo con tantissime novità. Prima di tutto c'è Alonso che correrà con la Ferrari e poi da ieri abbiamo un nuovo presidente della Federazione Internazionale. Jean Todt succede a Max Mosley, auguri quindi all'ex numero uno della Ferrari. Dalla Formula 1 passiamo al calcio, che questa settimana significa soprattutto Champions League, che direi ha mostrato in modo netto, impietoso, le due facce di Milano, perché da un lato c'è l'Inter, fortissima in alcune partite, anche irresistibile in campionato, che però si è smarrita per l'ennesima volta in Europa, non vince ormai da un anno, credo siano 8 partite senza vittorie. Nel girone quest'anno ha ottenuto il terzo pareggio su 3 partite ed è ultima tragicamente nel girone, e la qualificazione a questo punto è molto a rischio. Dall'altra parte invece c'è un Milan che appare quasi derelitto, insomma comunque vituperato e bistrattato in campionato, e invece ritrova l'eterna giovinezza in Champions League e mercoledì ha ottenuto una impresa davvero storica a Madrid. Sentiamo Giovanni Capuano. Ti aspetti il Real e ritrovi il Milan, ti aspetti Kakà e arriva Pato, ti aspetti la goleada come il tecnico dei madrileni e invece al Santiago Bernabeu esce la più pazza delle partite. Il Milan la conquista 3-2 con un secondo tempo esaltante dopo essere andato sotto per colpa di una papera di Dida, essere stato graziato dall'arbitro, aver rivisto la luce in 4 minuti con Pirlo e Pato, essersi fatto raggiungere da Drente e aver imprecato per una rete annullata Thiago Silva. Poi è arrivato ancora Pato, minuto 88 e fine delle danze. Al Milan evidentemente è rimasto il brasiliano giusto, l'altro, Kakà, ha camminato per 90 minuti insieme a compagni che non sono ancora una squadra. Sotto il diluvio invece la Juventus ha rotto il digiuno di vittorie, il Maccabi è stato piegato da una capocciata di Chiellini, nel finale solita sofferenza sotto la pioggia e soliti miracoli di Buffon, ma ora la classifica ride sia per i bianconeri che per il Milan, e l'Italia ha chiuso la 2 giorni di Champions con 3 vittorie e un pareggio. La temuta Germania si è fermata a un misero punticino. Nel frattempo qui a Radio 24 abbiamo lo sguardo lungo anche e soprattutto per lo sport. Guardiamo già i mondiali in Sudafrica, manca ancora un po' perché a dicembre ci sono i sorteggi dei gironi, però le partite vere e proprie si giocheranno l'estate prossima. Intanto però Dario Ricci se n'è andato lontano, è andato proprio in Sudafrica in questi giorni, ha fatto una serie di collegamenti e interessanti corrispondenze proprio dal Sudafrica. Sentiamo allora un suo collegamento in diretta martedì alle 12. Mentre il Sudafrica del calcio si interroga sul nome del futuro commissario tecnico dopo l'esonero di Santana, sempre più probabile il ritorno di Parreira, continuano a bordo campo i lavori per quanto riguarda gli stadi e le infrastrutture della Coppa del Mondo 2010. Vi parlo da Port Elizabeth, città sulla costa est, in particolare dal Nelson Mandela Bay Stadium, uno degli stati che già hanno concluso i lavori di preparazione, concluso nel giugno 2009, nello scorso giugno 45.931 posti a sedere e già 5 test event che sono stati ospitati in questa arena, che ha superato gli esami, considerando che è già ospitato il derby di Soweto tra Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, una delle gare sicuramente più attese qui nel panorama del calcio sudafricano. Unico problema, quello della viabilità della infrastruttura intorno allo stadio e anche quello della ricettività alberghiera, come ci ha confermato pochi istanti fa il vice sindaco di Port Elizabeth. Si sta lavorando duramente per aumentare la ricettività della zona, che potrebbe creare qualche difficoltà in vista dell'arrivo dei tifosi della Coppa del Mondo 2010. Chiudiamo questa puntata dell'ottavo giorno con la festa del cinema di Roma, che si è chiusa ieri, festa ancora giovane con pochissimi anni alle spalle. Qualcuno in questa edizione ha anche un po' storto il naso, insomma ha detto che è stata un'edizione meno scoppiettante delle altre, però pur sempre abbiamo visto grandi star, da Richard Gere a Clooney a Meryl Streep, applauditissima. E poi non è mancato il solito rito dei premi e quindi la divisione in buoni e cattivi, vincitori e vinti. Sentiamo allora com'è andata nel resoconto conclusivo di Marta Cagnola. The award goes to Brothers Cup di Niccolò Donato. È Brotherhood, il film vincitore del 4° Festival di Roma. Il regista Niccolò Donato, dal nome italiano ma danese, ha raccontato una storia di amori omosessuali nel mondo dei naziskin. Marco Aurelio d'Argento, ma anche premio del pubblico invece a Giorgio Diritti per L'uomo che verrà. Helen Mirren, migliore attrice per la sua straordinaria interpretazione della moglie di Lev Tolstoi in The Last Station, ha ringraziato i suoi grandi miti. Nel nome di Monica Vitti, di Claudia Cardinale, ha dedicato a Mastroianni il premio come miglior attore nel film di Alessandro Angelini, Alza la testa, Sergio Castellitto. A Marcello, alla maniera con cui lo saluteremmo tutti. Ciao Marcè. Infine, l'ovazione per il Marco Aurelio alla carriera Meryl Streep, che ha bacchettato scherzosamente la Mirren. Helen, non dimenticare Giulietta Massina, Silvana Mangano, la Madonna delle attrici Eleonora D'Usa. Marta Cagnola, GR24 Il Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo finito anche per oggi. Ricordo la mail a cui potete scriverci e commentare le nostre scelte e le nostre opinioni sui fatti della settimana: ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.